24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Sono le 7 e 17 minuti in questo istante. Un buongiorno a tutti voi da parte mia, da parte di Peter Bescapè in regia questa mattina. Dunque è il giorno della benzina sopra i 2 euro. Questo è il titolo di molte delle, appunto, delle prime pagine che troviamo questa mattina in edicola. Una giornata in cui si continua, diciamo, il lavorio europeo intorno alle capitali, tra Berlino, Atene, naturalmente Roma, con richieste, rinvii, la posizione UE su Atene, tutto questo, ma anche il giorno in cui dal nostro territorio continuano ad arrivare dei segnali preoccupanti per quello che riguarda l'ambiente. Mi riferisco da un lato all'agricoltura, quindi la perdurante siccità che colpisce molte zone, e già in un orizzonte che sembra ormai imminente la preoccupazione per il cambio che si attende repentino, per l'arrivo delle piogge, per le conseguenze che in molte zone d'Italia esposte a frane, al cosiddetto dissesto idrogeologico, si annuncia un autunno delicato, complesso. Pensate, proprio in queste giornate, ieri, mentre sentivamo alcuni amministratori locali, ne abbiamo trovati più di uno al lavoro proprio sulla programmazione delle prossime settimane, quando sono attese piogge e quando basta davvero fare una piccola indagine anche sul web, entriamo in un mese che storicamente sempre di più porta, appunto, degli incidenti di questo tipo nel sud, la costiera amalfitana. Insomma, settembre e poi ottobre, due mesi molto delicati, quando una terra riarsa ormai, una terra sottoposta per settimane a incendi, quindi a una frammentazione e a un progressivo indebolimento, viene improvvisamente poi sottoposta a un ciclo meteorologico completamente diverso. Ecco, di tutto questo parleremo più tardi con alcuni ospiti a partire dalle 8:20. Sentiremo, appunto, chi si sta muovendo, con quali strumenti e con quali difficoltà. Dopotutto siamo nell'anno, tutta l'estate abbiamo avuto ospiti, sindaci, amministratori locali, da una parte per raccontare quanti sprechi, quante volte in queste settimane siamo incappati in questi temi, dall'altra anche le complessità di chi invece, magari senza sprechi, lavora, appunto, per la messa in sicurezza del territorio, per affrontare le emergenze locali, eccetera eccetera. Tutto questo a partire dalle 8:20 circa, dunque tra un'ora da adesso. Tempo invece di ricominciare dalla nostra edicola. La benzina, dunque, la benzina sopra i 2 euro è il titolo d'apertura oggi del Corriere e di molte altre testate appunto quotidiane. Record in Italia nei distributori fuori dalle autostrade, e questa è il segno, la soglia, l'indicazione non psicologica ma non solo, visto che stiamo parlando di un record che poi si paga, e si paga nel rientro ormai imminente con questo fine settimana. Poi l'UE e Atene, così il Sole 24 Ore questa mattina, è l'UE ad Atene, aiuti dopo i tagli. Quindi Juncker e Merkel rinviano a ottobre le richieste greche. Ieri mattina vi abbiamo letto una parte dell'intervista che il primo ministro greco Samaras ha concesso al quotidiano tedesco Bild. Abbiamo detto come quello fosse di fatto un messaggio davvero alla nazione tedesca. Bild è un quotidiano che vende 5 milioni di copie, forse uno dei maggiori, anzi assolutamente per vendite, dei maggiori quotidiani del paese. Il messaggio che Samaras ha rivolto ai tedeschi, quindi all'opinione pubblica, oltre che naturalmente ai suoi interlocutori istituzionali con i quali ha tutta una serie di incontri, è proprio ce la faremo, siamo intenzionati a pagare il nostro debito. Quello che appunto Samaras ha chiesto ieri è tempo. La Grecia dunque chiede più tempo per le riforme,

Carbone e il remix creativo del giurista Lawrence Lessig. Ecco, per i legali di Apple basterebbe tener conto della cronologia degli eventi e affidarsi al buon senso. Quando nel 2007 Steve Jobs ha svelato al mondo il primo iPhone, i telefonini avevano tastini di plastica e suonerie polifoniche. Apple non ha inventato gli schermi tattili, che oggi sono lo standard degli smartphone, ma ha stimolato il sistema delle applicazioni, la trasformazione cioè del telefonino in una piattaforma di servizio. Pochi anni dopo la presentazione a San Francisco, le vetrine degli smartphone hanno cominciato ad assomigliarsi un po' tutte. Tavolette super sottili, senza tasti, animate da icone. Insomma, a decidere comunque saranno loro, gli otto giurati del Tribunale di San José. Il loro verdetto, sostengono gli esperti, cambierà il volto degli smartphone nei prossimi 10 anni. Non solo e non tanto per l'ammontare dei risarcimenti, quanto per le ricadute che questa sentenza avrà su tutto il mercato. Un esempio? C'è chi sostiene che a pagare il conto più salato sarà in realtà Google. Samsung è il più grande produttore al mondo di telefonini che montano il sistema operativo Android. Circa 7 smartphone su 10 girano appunto con l'Android, il resto è appannaggio della mela di Cupertino. Se dovesse prevalere Apple, gli avvocati di Cupertino potrebbero portare in tribunale per violazione di brevetto tutti i produttori che usano il sistema operativo di Mountain View. Insomma, una sentenza ormai imminente, con implicazioni davvero pesanti, interessanti anche sul fronte dell'industria di consumo e l'elettronica. Siamo quasi in conclusione, vi anticipo con una intervista che oggi appare sulle pagine di Avvenire. Il capo della Protezione Civile Gabrielli dice: pioggia, l'Italia oggi è fragile come nel 2011, quindi torniamo in Italia e torniamo, vi anticipo in questo modo il tema che andremo a affrontare più tardi. Il capo della Protezione Civile dice: incendi e troppe incurie, la situazione è preoccupante. Bene, per ora ci fermiamo, sono le 7:57 minuti, in linea naturalmente a GR24, noi ci risentiamo a partire dalle 8:20, a dopo. 24 mattino, estate. Sono le 8:20 minuti in questo istante. Prima di proseguire con i nostri collegamenti, con i nostri aggiornamenti, vi segnalo questa mattina in edicola c'è anche nel numero di settembre, quindi il mensile del Sole. Il petrolio non è finito e nemmeno il gas, scrive Christian Rock. Anzi, non ce n'è mai stato così tanto. Le ipotesi apocalittiche sulla fine degli idrocarburi a causa degli eccessi dei consumi, dell'infingardo modello capitalista, dei perfidi cinesi che inspiegabilmente abbandonano la bici per spostarsi in automobili con l'aria condizionata, si rivela una bufala, una delle più grosse. La notizia piuttosto è che abbiamo varcato la frontiera di una nuova era, un'era d'oro degli idrocarburi. Insomma, nel giorno in cui abbiamo parlato molto di prezzi della benzina, parliamo anche attraverso appunto le pagine di Ildi della nuova primavera, vogliamo dire così, della nuova stagione appunto degli idrocarburi. Tutto questo, come vi ho anticipato, nel numero in edicola, è il numero di fatto che anticipa il mese di settembre del mensile del Sole 24 Ore. Ma adesso torniamo decisamente in Italia, torniamo nella cronaca. Questa mattina ci raggiunge al telefono dalla Liguria Roberto Bacicalupo, sindaco di Cicagna. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. 38 anni, geometra? 39 anni. Aia, 39 anni, tempo passa anche. Senta sindaco, la questione di cui parliamo questa mattina è quella che ieri era, ma anche oggi devo dire, si riflette sulle prime pagine dei appunto dei quotidiani del vostro territorio. Per chi non avesse memoria breve, lo ricordo, noi l'abbiamo parlato parecchio. Massacrato dal branco di giustizieri, questo era il titolo di ieri del secolo XIX, quindi quotidiano di Genova, e oggi un virgolettato che dice: quei tre volevano ammazzarmi. Nell'entroterra genovesi, giustizieri del Marocchino, denunciati per tentato omicidio, tre uomini che hanno picchiato a sangue un marocchino e dicono ci rubava in casa. Allora, innanzitutto, sindaco, che razza di contesto ci ci emerge, ci viene raccontato da questi titoli, sembra, come dire, un comune violento, un comune di grave tensione. Qual è il suo racconto? Che cos'è Cicagna innanzitutto? Cicagna è un piccolo paesino di 2630 abitanti, come un piccolo comune come tanti altri, e vorrei sicuramente smentire in parte i titoli, perché a Cicagna non c'è nessun branco di persone che fa, voglio dire, razzia, o comunque non ci sono giustizieri della notte. Purtroppo queste tre persone che sono indagate sono lavoratori conosciuti in paese, sono padri di famiglia e, come tanti in Italia, sono esasperati purtroppo dai continui furti che vengono realizzati quotidianamente. Quindi non è un episodio locale legato a Cicagna sicuramente, ma è, per quanto mi riguarda, un episodio generale. Leggevo ieri sul giornale, voglio dire, succede in tutta Italia, Genova capitale dei borseggi, Savona leggevo che prospetta l'assunzione di ronde per il boom dei furti, a Udine i due anziani sgozzati. Quindi è un problema sicurezza che riveste tutto il paese. Ecco, sindaco, in questo caso a Cicagna poi l'obiettivo di questo agguato e di queste violenze è un cittadino straniero, un marocchino, è una questione diciamo di migrazione, una questione di razzismo? Assolutamente no, questo è, voglio dire, è un caso. C'è anche un problema di migrazione, ma non a Cicagna, perché comunque noi abbiamo una percentuale altissima di immigrati, circa il 12% su 2630 abitanti, e voglio dire, gran parte di loro sono tranquillamente integrati, per cui non è un problema di stranieri. Come le dicevo prima, sento in tutta Italia casi, a Rapallo ad esempio ha rischiato il linciaggio ed era un italiano, quindi è un problema di sicurezza. E a quanto mi risulta sono in esponenziale aumento i reati in Italia, soprattutto quelli di microcriminalità, che poi sono quelli forse che vanno a finire impuniti. Ecco, e oggi leggo che di una vallata che si schiera con gli aggressori e dice, dicono a mezze voci, i cronisti raccolgono, adesso lasciamo passare il momento, ma come dire, non esacerbiamo la situazione, ma di sicuro la questione non si chiude qui. Perché una vallata, appunto, all'interno, siamo, non siete lontani da Genova, no? Se non sbaglio, una 35 chilometri? Sì, circa 50 chilometri. 50 chilometri da Genova, ecco perché una vallata dunque si mobilita, perché tre incensurati arrivano a un atto di aggressione che tra l'altro appunto stiamo parlando di una denuncia per tentato omicidio, insomma una faccenda molto seria, perché si arriva a questo punto? Si è arrivati credo a questo punto, ahimè, perché come dicevo prima tutti sono esasperati dai continui furti che questa persona, voglio ricordare comunque che è un pluripregiudicato, che qualche settimana fa era stato arrestato in flagranza di reato e prontamente rilasciato a distanza di pochi giorni. Per cui la gente ormai ha paura, vive nella paura, cresce il sentimento di insicurezza e quindi l'esasperazione purtroppo porta a fare questi gesti. La gente della vallata è vicina a queste persone perché non era un branco di giustizieri, ma normalissime persone con famiglia, padre di famiglia come dicevo prima, che esasperati dai furti subiti personalmente anche nelle proprie abitazioni, non vedevano, ahimè, nella giustizia voglio dire, qualcheduno che assicurasse loro la sicurezza. Quindi ecco, in questa storia però manca totalmente, diciamo per adesso, mancano totalmente carabinieri, polizia. Dov'è il punto appunto di carabinieri, polizia più vicino a voi? Il punto più vicino è nel mio comune. Nel comune, i carabinieri? Il problema è che aumenta il crimine, ma purtroppo il governo, ahimè, taglia indiscriminatamente. Beh, insomma, c'è o no un posto di polizia? C'è un posto, ma come dire, il personale voglio dire, è poco, il controllo sul territorio deve essere maggiore, deve essere potenziata l'attività investigativa, altrimenti diventa troppo difficile voglio dire, controllare il territorio. E purtroppo con la spending review anche i carabinieri e la polizia hanno risorse in meno. Vabbè, però sindaco, adesso non può essere tutto colpa della spending review. Quanti carabinieri ci sono a Cicagna? Ci sono 5 carabinieri, ma purtroppo ad esempio che sono più del numero nel pomeriggio non si trova, ovviamente, perché la stazione fa i turni, quindi la gente deve andare a chiamare il 112, la posizione operativa di Chiavari, che è a 30 chilometri. Cioè la vostra sensazione è che con un posto di in questo caso appunto carabinieri presenti, non ha senso rivolgersi a loro? No, ha senso rivolgersi a loro, purtroppo anche loro fanno quello che possono. Come dicevo prima, 2 settimane fa hanno arrestato questo pregiudicato, ma purtroppo la giustizia non ha assicurato la giusta pena e l'ha liberato immediatamente. E questo personaggio continuava a perpetrare questi reati. Quindi la gente purtroppo è esasperata da queste cose, è esasperata dalla crisi economica, vede sempre più distanti ovviamente le istituzioni, in questo caso anche voglio dire chi controlla il territorio, per cui poi succedono questi gesti. Come dicevo prima, non succedono purtroppo sulla Cicagna, ma in tutta Italia. E quello che volevo sottolineare io è che questa spending review toglie postazioni operative, perché la nostra caserma, dalle notizie che ho io, sarà prossimamente chiusa perché il Ministero non paga l'affitto dello stabile. Quindi già in un piccolo comune dove succedono queste cose perderemo anche quei pochi carabinieri che abbiamo in loco, e questo è un problema gravissimo che succede non solo a Cicagna ma in tantissimi comuni come il mio. E la sensazione dunque cresce di dover organizzarsi da soli? No, la sensazione cresce di insicurezza e cresce la richiesta di tutela dei cittadini che lo Stato non riesce però a soddisfare e a garantire. Questo è il vero problema. Grazie. Questa è la gravità del fatto. Grazie al sindaco, lo ricordo, Roberto Bacigalupo è sindaco appunto di Cicagna, è stato con noi questa mattina, lui dà voce di fatto a una valle che, come abbiamo visto, si schiera con gli aggressori, dice, come racconta oggi con dovizia di particolari collega Marco Fagandini, collega Renzo Sanna, sul secolo XIX, al di là appunto dell'episodio della violenza, però sotto c'è una profonda disillusione, preoccupazione, queste persone coinvolte appunto nell'aggressione di questo cittadino straniero, di questo i cosiddetti giustizieri del Marocchino sono di fatto sostenuti da un'intera valle, da un intero contesto sociale, cosa che è opportuno faccia riflettere. Adesso cambiamo tema e cominciamo a farlo sentendo gli ultimi aggiornamenti sul fronte meteo. 24 mattino, estate. minuti ancora, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque il tempo che cambia, i forti temporali già previsti per il fine settimana fanno tremare le zone a rischio frane, zone spogliate di vegetazione da un'estate di roghi e siccità. Non è una novità di quest'estate, sono 5 milioni le persone che vivono quotidianamente, lavorano in zone a rischio di frane o di alluvioni. Uno su due i comuni che hanno aggiornato il proprio piano d'emergenza in caso di frane e alluvioni negli ultimi 2 anni, e quindi uno su due quello che non l'ha fatto. E così l'allarme ancora questa mattina, il capo della Protezione Civile Gabrielli dice: la pioggia, l'Italia è fragile come nel 2011, e dunque il tema che si rinnova. Può sembrare in qualche modo strano, perché siamo nel pieno del gran caldo, ma già sono in molti quelli che stanno lavorando per essere pronti al cambiamento imminente. Stamattina con noi abbiamo Giancarlo Chiavazzo, buongiorno, grazie di essere con noi. Mi sente? Buongiorno a tutti. Giancarlo Chiavazzo è naturalista, responsabile scientifico Lega Ambiente Campania. A proposito di situazione complessiva, quando Gabriele dice di fronte alla pioggia l'Italia è fragile come nel 2011, cioè nessun passo avanti, lei come la vede? Ma purtroppo dobbiamo dire ha perfettamente ragione, ecco Gabriele. La situazione è pressoché, come dire, stabile, nel senso che in un anno non abbiamo ravvisato grossi avanzamenti, così come negli ultimi anni, in quelle che sono l'insieme di attività che le amministrazioni pubbliche devono mettere in atto per essere, per così dire, pronte rispetto a quelle che sono le incombenze delle precipitazioni. Insomma, nessun passo avanti, speriamo magari invece su situazioni più localizzate. Allora coinvolgo subito da Genova invece Giovanni Crivello, che è assessore ai lavori pubblici e manutenzione di Genova. Buongiorno. Pronto, ci sente? Crivello? Non ci sente. Allora, vediamo se riusciamo a contattarlo. Intanto, dicevamo, allora, Chiavazzo, la situazione, se c'è una cosa che, come dire, in Italia è piuttosto equa, è la distribuzione del rischio. Adesso, tra un momento, andremo a Genova, dove chiederemo appunto a chi si sta occupando della messa in sicurezza, di fatto, della città, una città che è stata letteralmente squassata novembre scorso, attraversata dunque dalla frana. Nel sud molti casi, voi attraverso Legambiente avete fatto una mappatura che rinnovate ogni anno sui comuni che prendono iniziative, comuni virtuosi, comuni che invece restano molto indietro. Qual è il quadro che emerge in particolare nella regione Campania? Il quadro che abbiamo costruito e che ogni anno aggiorniamo, appunto, parte però da informazioni istituzionali, dobbiamo dire, quello che è lo stato dell'arte della pianificazione delle autorità di bacino, che evidenzia, in particolare per la Campania, una situazione di particolare sensibilità. Dobbiamo pensare che oltre il 90%, ecco, dei comuni presenta aree a rischio idrogeologico. 90% ha detto? Oltre il 90% dei comuni ci sono aree ad elevata criticità dal punto di vista idrogeologico. Questi sono dati ufficiali, ecco, dati aggiornati dal Ministero dell'Ambiente e dall'UPI, l'Unione delle Province Italiane. E ovviamente a questo dato si aggiunge quello lì delle superfici. Parliamo di una superficie in queste condizioni che si avvicina al 20% di quella complessiva regionale, quindi parliamo di più di 2500 chilometri quadrati, ecco. Cosa che, se si va a considerare sul fronte nazionale, vede circa un poco un 10% del territorio nazionale, per una superficie che si avvicina ai 30.000 chilometri quadrati di aree ad elevata criticità. In un paese che stringe la cinghia, in un paese che appunto ha difficoltà, in questi giorni abbiamo letto, abbiamo parlato del problema del Canadair, degli interventi, ecco, in un paese che fatica ad avere una cultura della prevenzione territoriale, come si fa ad affrontare un rischio così presente? Lo chiedo questa mattina al sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, sindaco, come si fa a fare quadrare il conto della sicurezza in tempi di ristrettezze? Ma guardi, è quasi impossibile. Garantire la sicurezza ai cittadini in una situazione come quella attuale è davvero complicato. Complicato perché le istituzioni locali sono abbandonate, non abbiamo un governo, non abbiamo una strategia che tende ad intervenire in modo serio e coordinato per eliminare i rischi dei territori, in modo particolare il rischio idrogeologico. Territori come i nostri, che ogni anno sono costretti a ripagare, a rimettere mano ai danni delle piogge, ai danni delle frane, che vanno a ledere significativamente il tessuto economico, ma vanno a toccare anche le casse degli enti. Si corre sempre dietro l'emergenza, non siamo in grado di mettere in piedi un programma, un progetto serio per andare a risolvere quelle che sono emergenze infrastrutturali. Gravità che adesso è diventata ancora più forte con il blocco degli idraulici forestali, delle comunità montane, che erano il primo avamposto, il primo momento di monitoraggio e di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei torrenti, delle zone in frana che facevano la... Voi quanti ne avevate sul territorio? Quanti lavoravano? Solo la comunità montana del Bussento Lambro Mingaldo ha perso più di 200 unità, che per 8 mesi l'anno si occupavano del controllo del territorio, che facevano queste attività di bonifica, che erano vigili e vigilavano principalmente anche rispetto agli usi dei territori. Immagini che un comune piccolissimo di questa nostra realtà, che è uno dei comuni che sta al di sopra di Sapri, noi siamo una baia con più una pianura con a ridosso tutto il sistema collinare, un comune piccolissimo di poche migliaia di abitanti a territori che si estendono per 37-38 km quadrati di territorio, quindi l'impossibilità reale di controllare e di tenere in. A tutto questo si aggiunge a che cosa? A anni di una mancanza di cultura di tutela del territorio, l'abbandono dei territori da parte del settore primario, l'agricoltura che non c'è più, e quindi l'attività edilizia che ha preso il sopravvento e che ha urbanizzato e ha fatto perdere quelle caratteristiche di ruralità, il tutto aumentando i rischi e i gravi danni e i gravi pericoli per i territori da un punto di vista di ecologia. Ecco, sindaco, ci deve essere però una possibilità, e le tornerò, lei ha parlato di cultura anche del territorio, l'urbanizzazione, voglio dire, tutta quest'altra parte non piove anche dal nulla, spesso assistiamo a disastri anche legati a costruzioni in territori impossibili o dove non dovrebbe esserci. Torniamo da lei tra un momento. Vorrei vedere allora se riusciamo a collegarci con Genova. Giovanni Crivello, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, Genova, pochi mesi di fatto dopo un disastro che l'ha veramente colpita nel cuore della città, quando questi rigagnoli per gran parte dell'anno si trasformano in qualcosa di completamente diverso. Ancora ieri c'erano domande, preoccupazioni circa l'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza. A che punto è Genova? Come si prepara alla nuova stagione delle piogge, di fatto? Sì, ovviamente in virtù di questa tristissima esperienza dell'anno scorso ha generato nella nostra comunità molte preoccupazioni, tensioni, che naturalmente alle quali cerchiamo di dare una risposta un po' a tutti. Noi adesso, io proprio per essere, vi ringrazio di questa opportunità, per essere al telefono con voi, ho temporaneamente lasciato il tavolo che avevo convocato per fare un po' il punto in vista delle prossime previsioni, quindi con le nostre aziende che in parte si occupano di manutenzioni, con la protezione civile. Ci stiamo lavorando da mesi, nel senso che però il ragionamento che stava portando poc'anzi avanti il sindaco, come dire, è assolutamente condiviso. Gli investimenti sono stati notevoli, parliamo di circa 130 più 29, quindi circa 160 milioni di euro, ma ne servirebbero ancora molti altri, perché si tratta, come si diceva poc'anzi, di un tema di, ahimè, di straordinaria importanza e attualità, che è quella del tema della difesa del suolo. Non mi dica però che in attesa di queste cifre, che naturalmente mancano sempre, i fiumi, i torrenti sono nello stesso stato dello scorso anno? No. Ok, ci rassicuri. Potrei farle l'elenco, no, dicevo, per mantenere saldamente i piedi per terra, che molti interventi sono in corso d'opera, altri sono programmati, però servirebbe molto molto di più, quindi non mi stavo sottraendo. Assolutamente. Mantenevo, ripeto, cercavo di essere il più pragmatico possibile. E alcune realtà, come sono state l'anno precedente, la zona di Sesto, l'anno scorso, dove il dramma è stato significativo, come è noto, nel Rio Ferreggiano, una serie di interventi sono già stati programmati, altri sono in corso d'opera sul Bisagno. Stiamo lavorando naturalmente anche sul grande tema delle manutenzioni. Poi naturalmente in questi giorni la questione delle previsioni sono sempre al centro, io ho letto anche dichiarazioni dell'Università di Firenze. Insomma, questo è un tema molto delicato, questo dei siti, noi ci rifacciamo molto naturalmente alle previsioni di ARPA, che non possono superare, non debbono, non dovrebbero superare i 3 giorni, insomma, quindi fino a sabato, e inoltre abbiamo una siccità e allerta a Genova che ormai si stanno protraendo come in grande parte del resto d'Italia. Insomma, si stanno creando tutte le condizioni. Lei dice, ecco, quello che abbiamo visto lo scorso anno, di fatto nel centro di Genova, è qualcosa che non potrebbe più accadere, nel senso che la manutenzione fatta su quei torrenti è sufficiente, è stata portata a termine oppure no? Portata a termine in totale no, perché non ci sarebbero state le condizioni dal punto di vista sia economico, ma dal punto di vista anche proprio della normativa, le procedure e quant'altro. È stato fatto una grande parte di lavoro, insomma. Lavoro che verrà, diciamo che oggi la rende, le permette di rassicurare anche i nostri ascoltatori che dall'area voglio assolutamente. assolutamente rassicurare. Nel contempo naturalmente manteniamo saldamente i piedi per terra e continuiamo costantemente ad essere sul pezzo. Tendo anche a dire, ma capisco, giustifico, che in virtù di quello che è accaduto si è creato molto anche preoccupazione. Certo. Pensiamo anche a una cittadinanza, come dire, che è la terza età, la quarta età, quindi genera ulteriore preoccupazione, quindi qualche volta qualcheduno, non mi riferisco certo a voi, ecco, rasenta anche un po' il terrorismo, però tuttavia noi cerchiamo di, con grande realismo, di stare sul pezzo. Di intervenire, grazie. Alessandro da Verona, prima degli aggiornamenti sulla viabilità, un nostro ascoltatore, buongiorno, ci dica. Buongiorno a tutti. I comuni e le amministrazioni spesso si lamentano della mancanza di risorse e sicuramente in questo periodo la situazione è critica, però poi a volte si scoprono anche spesso sprechi e vedersi i famosi spalatori di neve a Palermo. Quindi a volte le risorse ci sono, anche il personale, basta solo, secondo me, programmare bene e riuscire a impiegare bene queste persone in modo che possano tenere puliti fiumi e altri corsi d'acqua. Insomma, e usare le risorse che ci sono, dice Alessandro. Sì. Sì, e poi anche una provocazione, non so, abbiamo sempre le carceri piene di un sacco di persone, anche per reati minori. Si possono sfruttare queste persone per tenere pulite gli alvei dei fiumi? Grazie Alessandro, grazie di essere stato con noi quest'estate. Tra l'altro, appunto all'Idroscalo di Milano c'è stata un'esperienza di questo tipo. Sicuramente si può riflettere su tutto. 8:46, viabilità, torniamo dai nostri ospiti. 24 mattino, estate. Gianvito Graziano, il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Dunque, in Italia, come dire, ma non solo, ma in Italia soprattutto è facile dire non ci sono le risorse, non siamo sostenuti, non abbiamo più le persone. Quanto pesa una cultura, una mancata cultura dell'attenzione al territorio, alla prevenzione? C'è davvero più margine di intervento di quanto appunto la crisi economica magari non giustifichi? Si può fare di più con i mezzi correnti? Credo di sì, io credo che si debba fare di più, ma condivido l'impostazione secondo cui occorre una svolta culturale sotto questo profilo. Il sindaco ha tracciato molto bene le cause del dissesto, ha parlato di una serie di cause che vanno dagli incendi all'abusivismo, una mancanza generale di cultura del territorio. Dicevo, quello il sindaco di Sapri, lo ricordo, Giuseppe Del Medico, che è con noi, torneremo tra lui tra un momento. Quindi il quadro. Quello che non si può fare è continuare a lasciare, come dire, il fiammifero, il cerino acceso della mano del sindaco, che in qualche modo deve poi trovare le risorse per fare la manutenzione, per pulire i propri fiumi, per mettere in sicurezza i propri versanti. Non si può più improvvisare. Io riporto le parole del Presidente della Repubblica dopo i fatti di Genova, dopo i fatti delle Cinque Terre. A marzo a Vernazza il Presidente disse una cosa assolutamente saggia: bisogna che la politica, una vera politica, individui le priorità. Quello della difesa del suolo in Italia è una vera priorità, perché aumenta continuamente il deficit pubblico e in un momento come quello che stiamo attraversando non possiamo assolutamente permettercelo. Quindi non si tratta soltanto di trovare le risorse, ma di mettere a sistema una macchina organizzativa, e noi come Consiglio Nazionale dei Geologi da tempo invochiamo una legge organica di governo del territorio per far sì che queste azioni sul territorio diventino coordinate, non diventino soltanto, come dire, diciamo, non vadano a gravare poi sui bilanci di comuni molto piccoli che molto spesso non hanno la possibilità di farlo. Quindi, di farlo. In Italia occorre fare una legge organica. Occorre fare una legge organica, dice appunto Gianvito Graziano, lo ricordo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. In Italia c'è un po' la tendenza, di fronte agli eventi calamitosi eccetera, a reagire progettando sistemi, strutture di protezione. Adesso vorrei parlare ancora con i nostri ospiti sul fatto, se chiedere loro se anche un po' questa cultura, dunque c'è il disastro, costruisco, cerco di cambiare la città, intervengo con grossi appalti, sia la strada da percorrere. Prima però abbiamo un ascoltatore da Padova. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Senta, io quando sento, diciamo, diciamo, gli eventi eccezionali che si verificano, lo tsunami, le inondazioni, i fatti, diciamo, di questo tipo, rimango abbastanza allibito su una cosa, cioè noi non siamo in grado, cioè c'è la caccia sempre al colpevole, non deve essere colpa di qualcuno, ma quando gli eventi sono straordinari è una cosa che non ha nessun senso, cioè voglio dire, perché quell'evento straordinario si verifica in un determinato territorio, in quel momento là ci sarà un sacco di problemi e creerà quindi quello che succede, ma dopo domani quell'evento straordinario si creerà in un'altra situazione a distanza di 100 km e sarà la stessa identica cosa, cioè con un territorio che ha questo rischio idrogeologico così grave, ma dovremmo essere gli emiri del Qatar per poter mettere in sicurezza il territorio. Però io direi, cominciamo a scindere quelli che sono gli eventi straordinari. Se cadono 20 centimetri di pioggia in 10 minuti è un evento straordinario che neanche il Padre, cioè solo il Padre Eterno potrebbe intervenire. Invece c'è la sistematica caccia al colpevole. Sergio, Sergio, la ringrazio, sono perfettamente d'accordo con lei. Lei solleva una questione che spero, come dire, fosse anche presente nelle mie parole. Un conto è lo straordinario, un conto però è l'ordinario. L'Italia ha una struttura, appunto ha una mappa di fatto del territorio in cui l'ordinario è di per sé ampiamente sufficiente a imporre una politica di prevenzione. I torrenti sono, anche quando sono asciutti, sono dei segni della terra. Detto ciò, con Giancarlo Chiavazzo vorrei proseguire. Anche il nostro ascoltatore dice: mettere in sicurezza il territorio è impensabile, ma è pensabile viceversa aumentare, lavorare sulla cultura della sensibilizzazione sociale, insomma permettere che almeno l'ordinario sia affrontato in maniera sistematica, a suo avviso? Assolutamente, questa è la chiave di lettura giusta per affrontare il problema. Anche perché alcuni lo fanno, voi segnalate comuni che lo fanno. Certo. Allora io vorrei a questo punto spendere qualche parola per chiarire un po' qual è la prospettiva sul dissesto idrogeologico. È vero, sì, ecco, noi abbiamo avuto modo di apprezzarlo purtroppo, e noi dall'esperienza di Sarno, delle frane di Sarno 98, che non ci sono oggi le condizioni di sostenibilità economica per poter intervenire strutturalmente, oltre che sicuramente sostenibilità, non c'è la sostenibilità ambientale e sociale, basti fare una passeggiata a Sarno e si vede quale sia lo scempio di cemento che è costato, ecco, l'ambizione di mettere in sicurezza il territorio in termini strutturali. Giusto per dare qualche numero, in Campania ad esempio, se si volesse prendere in considerazione, ecco, i dati che sono stati di spesa, ecco, del POR, del piano operativo regionale 2000-2006, si andrebbe, per estrapolazione, se si volesse mettere in sicurezza il territorio, si arriverebbe a cifre di circa 30 miliardi di euro, cosa assolutamente insostenibile dal punto di vista economico, ma ripeto, non solo economico, anche sociale e ambientale. Ecco, la risposta immediata unica che si può dare a fronte delle criticità del dissesto idrogeologico, che sono legate anche alla diffusione, sono quelle lì dei meccanismi di previsione, prevenzione, allerte, allontanamento, cioè quella macchina che serve a far sì che nel momento in cui ci sono indicatori, e quali le piogge, che superano un certo limite, scatti un meccanismo che fa sì che la gente, le persone sappiano cosa fare, come comportarsi, e dove spostarsi, quali comportamenti tenere, e quindi si possano salvare vite umane. Ecco, il coinvolgimento della comunità è una cosa, certo, che rimane sempre sullo sfondo. Lei ha citato Sarno 15, insomma credo che in molti, certo, lo ricordino, la frana del 98. Oggi, se non sbaglio, l'ho letto ieri, il vostro rapporto 15 rimane in fondo alla lista tra i comuni che appunto... È raccapricciato. Cioè le elezioni... Purtroppo perse, un comune come 15 che ha subito quello che ha subito, oggi è in fondo a una lista di comuni italiani appunto sulla adattamento al rischio ambientale. Vorrei chiudere con Giuseppe Del Medico, parliamo del coinvolgimento della comunità a Sapri, visto che appunto lei è sindaco di Sapri, ma in che modo si riesce a coinvolgerlo, se si riesce a coinvolgere la comunità facendo appunto conti con le difficoltà economiche, le obiettive difficoltà che voi sindaci avete? abbiamo iniziato da poco, è stata un'esperienza importante, prima dell'estate, un importante coinvolgimento dei cittadini con un'iniziativa di volontariato ampia, ci ha permesso di rimettere in ordine un po' il sistema dei canali, un minimo di pulizie, di sommario intervento per cercare di ridare un minimo di ordine e tutelare in un certo senso, almeno per nell'imminenza della stagione estiva, queste altre torrentizie, gli spazi pubblici che c'erano, sui quali ovviamente non riuscivamo ad intervenire. Sono state due o tre esperienze estremamente importanti, speriamo di poter riproporre questo percorso, che sia non solo quello del coinvolgimento per le manutenzioni e per la tutela, ma anche principalmente, come diceva prima l'amico di Legambiente, nel mettere in piedi un sistema di monitoraggio e di attenzione nei momenti di difficoltà per consentire di limitare il più possibile i danni. Io ritengo che ci sia una necessità che il governo, che la politica assuma il concetto della priorità. Guardi, non è immaginabile che si spendano milioni e milioni di euro per manifestazioni di promozione turistica o per la sistemazione di piazzette e piccoli spazi pubblici, quando poi è molto probabile che nel giro di breve tempo tutto ciò venga portato via da un importante temporale o da un dissesto franoso. Le priorità sono determinanti, noi abbiamo la necessità di mettere in sicurezza un territorio e si può fare attraverso non straordinari interventi di cementificazione o di grandi infrastrutture, c'è necessità principalmente di intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aste torrentizie, c'è necessità di avere vigilanza e controllo dei territori e c'è necessità di investire anche prioritariamente sulla costruzione di una cultura della tutela del territorio attraverso le scuole, attraverso la pianificazione, attraverso i poteri reali che devono essere esercitati. Abbiamo fatto un esempio: per fare un qualunque intervento in un ambito rurale o in un ambito sottoposto a vincolo idrogeologico c'è bisogno di almeno 10 autorizzazioni. Per ottenere 10 autorizzazioni non esiste un soggetto proposto al controllo che quelle autorizzazioni vadano e vengano realizzate nelle more delle prescrizioni fatte. Insomma, un lungo lavoro di fronte a tutti noi, un coinvolgimento delle scuole. Dove sono in tutto questo? Appunto, perché certi temi così cruciali per il territorio non hanno spazio poi nelle scuole? Grazie ai nostri ospiti, avete sentito ora Giuseppe Del Medico, sindaco di Sapri, Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico Legambiente Campania, Gianvito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, e Gianni Crivello, assessore al lavoro in manutenzione di Genova. Siamo in conclusione, noi ci sentiamo domani, adesso GR24, poi naturalmente Oscar Giannino, a domani.